Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Abbiamo spesso sottolineato durante la scorsa edizione come l'efficienza energetica sia talvolta più una questione di software che di hardware, e in particolare come una regolazione molto attenta delle temperature nel settore residenziale possa unire comfort e risparmio energetico, pur lasciando insomma fondamentalmente invariati gli impianti. Da questo punto di vista, una delle soluzioni più semplici ed economiche consiste nel dotare i termosifoni di valvole termostatiche, cioè valvole che chiudono i termosifoni quando la stanza ha raggiunto la temperatura voluta, temperatura che appunto si imposta direttamente sulla valvola. Ebbene, intorno a questa possibilità si stanno diffondendo sul mercato, emergendo con una certa evidenza negli ultimi tempi, varie famiglie di soluzioni che sono, per così dire, più raffinate, diciamo delle valvole termostatiche di seconda generazione, che possono essere utili sia appunto nel settore residenziale che negli ambienti di lavoro. Ne parliamo con Andrea Fornari, che è responsabile tecnico di Cremonesi Consulenze, ovvero lo studio di progettazione che è anche consulente nazionale di Adiconsum, proprio per quanto riguarda rinnovabili ed efficienza energetica. Buonasera Fornari. Buonasera Melis. Allora, intanto iniziamo dalle comuni valvole, quelle lì bianche che si mettono ai caloriferi. Abbiamo detto a che cosa servono. Qual è l'entità del risparmio energetico che si può puntare ad avere con questi primi sistemi più grezzi? Le valvole termostatiche manuali, come lei ha detto, portano un risparmio che si aggira tra il 5 e il 10%. Questo risparmio è soggettivo, nel senso che dipende dall'utilizzo della persona. Certo. Per esempio, se uno effettivamente ha bisogno di temperature molto diverse nelle stanze. Insomma, sì, se uno e poi chiaramente se uno vuole stare a 20 gradi o a 22, chi sta a 22 certo, pagherà di più. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ecco, in che tempi si recupera? Di che investimenti stiamo parlando? Veramente poco, vero? Ma investimenti molto bassi, nel senso che la testina termostatica costa 20-30 euro, quella bianca. Sì. Cambiare la valvola installandola su un vecchio radiatore costa fra i 60 e i 70 euro. D'accordo. Installata, IVA compresa. Ok, d'accordo. Ecco, invece si stanno diffondendo sul mercato delle valvole, per così dire, elettroniche, digitali. Che cosa hanno in più? Che cosa consentono di fare che le vecchie valvole non permettevano? Ma queste valvole permettono più che altro di poter gestire singolarmente le singole zone dell'abitazione, quindi le singole stanze, dal punto di vista della fascia oraria e dell'accensione in maniera automatica. Quindi io posso regolarmi su una programmazione settimanale, ad esempio, le temperature che voglio in cucina piuttosto che in bagno. Quindi è come avere tanti termostati e tante programmazioni indipendenti, ognuna per ogni locale o per ogni ambiente, in pratica. Esatto, quindi okay. Associa i vantaggi del cronotermostato della calderetta autonoma, diciamo, che mi permette di accendere o spegnere l'impianto, sì, quando voglio io, negli orari che voglio io, all'estremo vantaggio di poter gestire le singole stanze, nel senso che in camera modo posso aver bisogno di 18 gradi, in bagno di 22, ecco. Ecco, però probabilmente questi vantaggi sono effettivi non proprio in tutte le circostanze. Quando è veramente il caso di installare questo tipo di valvole, che costano un pochettino di più? Costano sicuramente qualcosa di più e vanno installate soprattutto se è un utilizzo dell'appartamento non continuativo durante tutta la giornata, nel senso che se esco la mattina alle 7 e ritorno alla sera alle 8, questa valvola mi può portare effettivamente dei grossi vantaggi. Se invece vivo l'appartamento tutto il giorno in maniera costante, come può essere magari il pensionato, la valvola, anche quella manuale, visto che costa meno, mi porta più o meno lo stesso vantaggio, perché non devo continuare a accendere o spegnere, ma abito l'appartamento, quindi lo tengo sempre più o meno caldo. D'accordo. Ecco, immagino che poi le abitazioni molto grandi possano trarre un beneficio. Per esempio, se la zona notte non viene proprio utilizzata durante il giorno, forse lì ha senso separare proprio la gestione, vero? Se la casa è grande, visto che le valvole manuali andrebbero modificate manualmente, con queste valvole, potendole azionare da un sistema centralizzato, diciamo, ho dei grossi vantaggi gestionali e anche di comodità per l'utente, per cui le userà sicuramente di più rispetto ad avere la valvola manuale. Ecco, senta, diciamo che queste valvole sono una specie, diciamo, di versione in piccolo di sistemi domotici più complessi. I sistemi domotici hanno vari sensori, anche di presenza, non solo di temperatura, ma per esempio sono in grado di regolare le luci. Qui invece abbiamo, con una soluzione molto, molto economica, una sorta di sistema domotico relativo alla regolazione della temperatura. Oltre a queste valvole ci sono anche diversi, infatti, come dire, sensori che si possono applicare. Ecco, di che tipo sono e quando è il caso di usarli? Ma sono sensori che vanno a regolare, ad esempio, a dare degli allarmi se le finestre sono aperte o se le porte sono anche lì rimaste aperte. Diciamo che sono legati sia al risparmio energetico, ma non credo tanto nell'ambito familiare o residenziale, quanto più nell'ambito di edifici pubblici o di uffici, dove effettivamente chi controlla fa pochi controlli, quindi avere dei segnali che mi allarmano se ho lasciato le finestre aperte. Per esempio, lì evitano di far andare il riscaldamento, certo. Evitano di sprecare un sacco di energia, insomma. Ecco, lei però dice a casa uno di solito sei lì, si accorge che la finestra è aperta. È difficile che uno lasci le finestre aperte, perché o gli entrano in casa i ladri. Certo. Ecco, senta, chiudiamo molto rapidamente. Quanto costano queste valvole? Costano molto di più? Quali sono i tempi di rientro? Queste valvole possono costare da un 30-40% in più rispetto alle altre, possono anche costare il doppio a seconda di quanto sono sofisticate, raffinate, certo. Però siccome i payback delle valvole termostatiche in genere si aggirano senza nessun tipo di finanziamento intorno ai 5 anni, quindi ipotizzandolo in un intervento con il 55% si ripagano in 2 anni, 2 anni e mezzo, anche se costano qualcosina di più si ripagano in tempi abbastanza brevi, ipotizziamo 3 anni e mezzo per questa, ecco. D'accordo, grazie allora Andrea Fornari. La ringrazio, Melis, arrivederci. Anche per oggi è tutto, ci risentiamo lunedì, buona serata intanto e buon fine settimana.